ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Io rosicato, io sono quello che io sono più incazzato di tutti e non sono partito, perché in quel momento là, secondo me, la Juventus in questo momento è la squadra da battere, però è una squadra in costruzione, una squadra che sta provando a fare un qualcosa di nuovo ed è un cantiere aperto. E io avevo la sensazione che potevo andarmela a giocare tranquillamente, perché facevo giocare la stessa squadra che ha giocato oggi. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Osimhen va vuoto, Romero, Osimhen, il tiro dalla distanza, Osimhen, cala il poker il Napoli, primo gol in Italia per l'attaccante nigeriano. Massio, the master of Massio. Ha avuto problemi sotto gli aspetti tecnici, tattici, atletici, quindi il Napoli è stato superiore su queste cose, noi abbiamo sofferto, abbiamo preso anche dei brutti gol abbastanza evitabili. Prova ad andare in velocità, Rafael Leao salta l'avversario, ecco la traversale per Zlatan, Ibrahimovic, 2-0, doppietta di Ibra. Mi spiace aver perso una partita, secondo me alla fine ben giocata da parte nostra. Io penso che abbiamo creato veramente tantissime situazioni per fare gol. Loro sono stati bravi, al tempo stesso penso anche in alcune circostanze fortunati. Per episodi che abbiamo avuto durante la partita siamo stati costretti a rincorrere e a gestire poi il risultato in 10, però quando la Juve viene in questi campi è giusto che vinca, quindi sono due punti persi. Campionato bellissimo, Carlo, bellissimo. Dove succedono tante cose. Intanto si fanno tanti gol. Siamo già a quota 29 nelle 7 partite che si sono giocate fin qui della quarta giornata. Mancano Udinese Parma alle 18, che è una partita che ha una storia tutta particolare. Il Parma ha 7 positivi al Covid, certo. Il settimo è uscito oggi, eppure è partito regolarmente per Udine, si è confrontato con l'ASL e poi alla fine la decisione è stata, oggi c'è anche il comunicato della Lega Calcio che plaude a questo tipo di presa di posizione, la decisione è stata che c'è un protocollo e quindi esatto. Si va avanti. Perché il calcio professionistico gode di un corridoio privilegiato, diverso, diciamo, esattamente come tante altre attività. E quindi oggi il Parma alle 18 gioca a Udine e gli mancano 7 giocatori. Noi facciamo un plauso al Parma, facciamo certo, un plauso certo. A Conte, che né alla vigilia né dopo il derby è stato a discutere dei 6 che gli mancavano per il Covid. Facciamo un plauso al Genoa, che domani andrà a giocare a Verona. Stanno piano piano guarendo, ma sono ancora tanti i giocatori fuori. Questa è la strada, Questa applaudiamo è chi la rispetta strada. La legge, dovrebbe essere la norma rispettare legge e regolamenti, ma sappiamo tutti dove vogliamo arrivare e poi ne parleremo, perché comunque il Napoli ieri meraviglioso ha goduto di una condizione privilegiata. Sono state 2 settimane ad allenarsi con calma in ritiro, mentre gli altri mandavano i giocatori in giro per le nazionali e questo ha pesato. 17:45, ne parleremo con Filippo Maria Ricci, perché ha pesato in Italia e basta dare un'occhiata ai risultati, ma ha pesato anche altrove. Allora vi do i contatti per intervenire in diretta, siamo qui fino alle 19, 800 24 00 24, numero verde gratuito 349 238 6666, sms e whatsapp anche vocali. Saluto Riccardo Ferri, ciao Riccardo. Ciao, buon pomeriggio. Allora, ti sta piacendo o no questo campionato? Sì, sapevamo che poteva essere un campionato condizionato alla pari di quello dell'anno scorso, se non anche per certi versi anche maggiormente. L'impressione è che oltre all'aspetto tattico, all'aspetto tecnico e alla capacità di creare degli equilibri che sono venuti un po' a mancare nell'ultimo periodo, secondo me questo sarà un campionato che sarà vinto dalla squadra che avrà più accortezza così a proteggersi dal coronavirus e anche con un po' di fortuna, e poi ci metterà tutto il resto, perché è indubbio che se alcune rose vengono decimate alla vigilia di partite importanti possono indubbiamente avere meno chance di potersi giocare come si può dire, quelle partite che determinano, poi fanno un po' da spartiacqua per il campionato. Troppo presto per capire chi sia davvero favorito, eh? Diciamo la verità, Riccardo, è tutto un borsino di sali e scendi. Oggi ad esempio sale il Napoli, sale il Milan, scende la Juve, scende l'Inter, tracolla l'Atalanta, che era la squadra che era piaciuta fino a questo momento. Ieri è andata incontro a un primo tempo oggettivamente difficile, difficile da spiegare. No, ci sta l'Atalanta, insomma, ogni tanto un passaggio vuoto possiamo anche metterlo in conto e concederlo. Vale il discorso inverso rispetto a quello che avevamo fatto prima per il Napoli, cioè l'Atalanta si è andato un quarto d'ora, è andata a giocare, a Napoli, ha preso quattro schiaffi. Campionato che sembra, insomma, una passeggiata su un campo minato, no? Perché tu non sai chi potrai mettere in campo la domenica successiva, però ripeto, queste sono regole del gioco ed è utile rispettarle. Quanto all'Inter, cosa diciamo, Riccardo? Cosa diciamo? Ma diciamo che è stata una buona partita. Io tra l'altro ho avuto la fortuna di poterla vivere in diretta in un ambiente surreale, perché il pensiero di avere 1000 spettatori in una partita così bella, così importante, così avvincente, avere 79.000 seggioline libere, insomma, faceva un po' effetto. Sembrava inizialmente una partita così, un po' d'allenamento, no, del giovedì. Poi è chiaro che l'interesse, l'obiettivo e il risultato l'ha fatta da padrona. Diciamo che l'Inter è andata un po' a sprazzi, ha avuto, sì, crea molto, però prima parlavo di equilibri, no? Secondo me, ecco, oltre all'Inter ci sono altre squadre, ma proprio ieri si intravedeva il fatto che comunque quando il Milan strappava con Çalhanoğlu soprattutto e sulla fascia con gli esterni velocissimi, metteva in difficoltà, creava superiorità numerica, e quando metteva queste palle al centro erano sempre comunque occasioni importanti. Però c'è da dire che l'Inter rispetto all'anno scorso crea molto di più, ecco, bisogna cercare di registrare un attimino quella che è un po' sulla marcatura preventiva, sulle posizioni anche in palla in movimento, tra uomo, palla e porta. C'è tante cose che sicuramente Da sistemare. Fanno la differenza, perché sappiamo cosa vuol dire le reti subite nell'economia di un campionato. Adesso tra qualche minuto con Demetrio Albertini parliamo del Milan e parliamo anche di quello che ha detto tuo amico lo zio Bergomi, no? che insiste che il Milan è da scudetto. Volevo chiederti però, come rappresentante dei difensori italiani, se non provi un brivido nel vedere la difesa 3 Kolarov di questo inizio di stagione. Sono situazioni che avete prima sottolineato, che sono dettate da emergenze che indubbiamente né Conte né tantomeno il calcio italiano può preventivare. Quindi però Kolarov nei tre dietro è stato scelto da Conte quest'estate, anche la scelta di mandar via Godin gratis pagandogli, diciamo, la buona uscita. Sì, però io non voglio essere banale, ormai si dice spesso, no? Quando si parla della linea difensiva, che è importante anche il supporto che ha davanti. Quindi, come dicevo prima, l'Inter sembra avere quest'anno una trazione anteriore più efficace, più reattiva e meno nella capacità poi di chiudere gli spazi, quando invece viene presa in contropiede, viene presa in ripartenza. Ecco. L'impressione che ho avuto ieri è questa mancanza di capacità di riposizionarsi quando si perde palla, ed è chiaro che la linea difensiva può in quel caso andare in difficoltà. Poi se andiamo ad analizzare il gol di Ibrahimovic, il secondo, è chiaro che c'è un posizionamento su un cross dall'esterno, un posizionamento sicuramente sbagliato da parte dei difensori rispetto ai Ibrahimovic. In quel caso sappiamo benissimo, i difensori che sono in ascolto lo sanno, che quando c'è una palla esterna si sente l'uomo con una mano e si guarda la palla. In quel caso si è guardato solamente la palla e si è perso Ibrahimovic, che indubbiamente sappiamo quale pericolosità ti può creare. Si è fatto tirare da quel pallone che tagliava e ha lasciato dietro l'attaccante che poi l'ha spinta. Come del resto il gol di Lukaku è uguale, cioè è rimasto da solo ad appoggiare la palla di piatto. Quindi questi sono errori indubbiamente che vanno rivisti, sono situazioni e posizioni che vanno sicuramente riviste. Mi sembra che l'Inter faccia anche un po' fatica a far ripartire l'azione, Riccardo. No, questo secondo me no. Quando magari il Milan saliva alto e Handanovic faceva fatica magari a trovare lo sbocco. Però questo è il gioco che vuole Conte, partendo da dietro, cercando di essere un po' più lenti, e poi dopo riuscire invece a essere veloci con gli esterni che quest'anno sono veramente, veramente pericolosi. Ricky, due cose poi ti saluto. La prima, siamo arrivati a 124 gol in 34 partite, ho tolto quelle che non si sono giocate ovviamente, i 2-0-3 a tavolino, media 3-64, siamo già a 29 in 7 partite di questa giornata, addirittura nella seconda ce ne sono stati 43 per intenderci. Perché si segna così tanto? Cioè, è cambiato qualcosa nell'approccio degli allenatori? Io a volte ho l'impressione che in tanti stiano tentando di impostare un calcio simile a quello dell'Atalanta, che aggredisce difendendo in avanti, pressa, sempre cercare di recuperare il pallone nei primi 2-3 secondi di gioco. Poi se non ti riesce, chiaramente ti capita di doverti difendere 3 contro 3, 4 contro 4, 5 contro 5. Sì, l'impressione è quella, che ci sia un cambio di tendenza, no? Che insomma, tutte le squadre vogliono partire da dietro con il gioco coinvolgendo il portiere, addirittura anche nell'area piccola. E poi dopo magari si perde un po' quella capacità, come ho detto prima, di migliorarti su palle inattive o comunque su anche palle in movimento rispetto all'avversario palla e porta. E invece si predilige l'attacco, si predilige il partecipare in massa alla fase offensiva, il tenere sempre di più le squadre corte, però questo chiaramente poi, come abbiamo detto prima, poi la linea difensiva deve essere una linea difensiva molto attenta a chiudere gli spazi, poi a volte non è sufficiente, perché come abbiamo visto ieri, pur in certe situazioni riuscire a venire fuori da situazioni difficili, però se davanti non c'è una diga, se davanti non ci sono giocatori che si prestano immediatamente a mettersi dietro la linea della palla, tutto il resto va in difficoltà, e non solo l'Inter, credo che anche l'Atalanta l'ha dimostrato, non facendo sempre lo stesso gioco, la Lazio stessa, quindi ci sono problematiche che l'anno scorso probabilmente non erano emerse così in maniera evidente, sì. I gol lo testimoniano. C'era modo diverso. Ultimo tema, poi abbiamo il traffico, deve preoccuparsi di più Pirlo o Conte? No, io credo che sono due società ambiziose, Pirlo indubbiamente viene chiamato a mettere il decimo sigillo e quindi se non lo farebbe sarebbe sicuramente colui che non è riuscito poi rispetto ad altri a vincere il campionato. Conte a mio avviso invece ha formato una struttura importante l'anno scorso e quest'anno insomma dovrebbe iniziare a mettere un po' gli arredi, come si suol dire, a mettere il tetto e a chiudere un attimino il cantiere, ecco, portando a casa un risultato importante. Quindi la pressione diciamo che c'è su tutte e due, ma questo penso che siano due allenatori, soprattutto Conte che ha più esperienza, capaci a gestirle insomma. Sì, Pirlo è un uomo di campo con esperienza, allenatore, vedremo. Grazie Riccardo. Ciao Ricky. Grazie a voi, buon ciao. Lavoro. Ciao, grazie, ciao. Voi, grazie Riccardo, ciao. Poi ovviamente c'è il Napoli, adesso ne parliamo con chi conosce bene non solo la realtà del Milan e anche come è stata costruita questa squadra, ma Rino Gattuso che sta prendendo la laurea in corso da allenatore, a proposito di Gavetta, di storie da cui passi prima di riuscire ad esprimere tutte le tue potenzialità. Ci fermiamo, c'è il traffico, un minuto, torniamo e parliamo proprio di questo. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Very bravissimo. Tutti convocati. Convocati. Il Milan vuole andare in Champions. Siamo inizio. Ma si può pensare a qualcosa di più della Champions? Secondo me c'è possibilità, sicuro. Uno che crede può fare tutto. E noi ci crediamo e stiamo lavorando per questo. E poi al fine vediamo. Deve fargli scongiuri che non succede nulla, siamo una squadra giovane, abbiamo la prima, non si sbaglia mai, Bacca era da 7 mesi che non giocava e capisci che dobbiamo ancora, stiamo adottando un modulo che è nuovo, dobbiamo migliorare su tanti aspetti, è normale, la squadra è forte, una squadra forte, una squadra che ha la sua identità, ma sicuramente devono filare tutte le cose nel verso giusto. Gattuso e il Milan. Proviamo a legare insieme queste due storie che nel nostro borsino di oggi sono quelle in crescita. Il Milan addirittura è primo da solo, punteggio pieno, secondo c'è il Sassuolo, altra bella storia di calcio, 3 vittorie, un pareggio, 10 punti, 13 gol segnati, solo l'Atalanta ne ha fatti di più, e nelle ultime 3 partite il Sassuolo ha sempre segnato 4 gol. E un sacco di nazionali, tra l'altro, Giovanni. E un sacco di nazionali, questa è una cartina, perché abbiamo visto l'Ital al Sassuolo, bravo, in questa sosta. Cartina attorno a sole, d'altra parte è un gruppo che... Anche qui valeva per la Lazio l'anno scorso, è un gruppo che lavora insieme, vale per l'Atalanta naturalmente, lavora insieme da molto tempo con lo stesso allenatore, con idee precise e con giocatori di qualità, perché questo è fondamentale, sì, ovviamente. Cosa che non sta succedendo, nel senso, sta succedendo a livello dei risultati, ma non si può raccontare di una storia di lavoro molto prolungato insieme al Milan, che pure è una squadra forte, coerente, ha anche dei limiti, ma in questo momento, ed è un momento prolungato, li sta assolutamente nascondendo bene. Saluto Demetrio Albertini, ciao Demetrio. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Allora, a me sorprende molto, devo dirti la verità, il Milan, perché sembra posizionare ogni settimana l'asticella un po' più in alto. Demetrio. Personalmente no, nel senso che conoscendo un po' quello che è un percorso di uno spogliatoio, dopo i risultati, dopo il lockdown, chiamiamolo così, ti dà una consapevolezza incredibile, quello di poter essere sulla strada giusta, e quindi mi sarei sorpreso in un'altra situazione. Tu, quando vivi uno spogliatoio, la cosa più difficile è riuscire a avere lo stesso obiettivo tutti i giocatori insieme, questa è la cosa più difficile, e io credo che lo stop del campionato li abbia aiutati tantissimo a poter riprendere con quella consapevolezza di aver fatto bene. Il Milan ha giocato anche molte partite, Demetrio, quella di ieri è la partita spartiacque, perché era la prima contro un avversario, compreso il periodo del lockdown, contro un grande avversario. È vero, c'è stata la Juventus, ma soprattutto una partita pesante per la classifica. Era almeno un anno e mezzo, calcolato, che il Milan non giocava una partita che pesava qualcosa per il campionato. Ancora molto presto, ma era comunque, diciamo, un confronto diretto quasi. No, pesava, non è molto presto. Quando incontri il derby, io che ho fatto tutte le giovanili... Qualcuno l'hai fatto, magari sì. Adesso un po' si è perso un po' questa... diciamo atmosfera, però devo dire che è una partita diversa. È vero che sono gli stessi 3 punti, però vincere il derby assolutamente ti dà un'iniezione di fiducia, di essere sulla strada giusta e sulla possibilità di poter continuare su quello che è la strada, almeno cominciare a intravedere quelli che sono gli obiettivi. Quest'anno io ho detto più volte, ancora prima del derby, che il Milan non può non avere, diciamo, l'obiettivo di entrare nei primi 4. È inutile che diciamo, so che è difficile, però il Milan deve assolutamente avere un dovere di entrare nei primi 4, punto. Il resto sono chiacchiere. A costo di gestire anche un po' di critiche, però il Milan deve stare nei primi 4. Deve stare lì. Tu lo sai che lo zio Bergomi da quest'estate sostiene che il Milan è da scudetto, ieri l'ha ripetuto. Io personalmente non la reputo da scudetto, ma non per togliere delle responsabilità, ma io credo che ci sia l'Inter e ci sia la Juventus un gradino un po' sopra. Però sono anche quello che ha vinto il campionato, lo scudetto nel 99, dove nessuno ci accreditava come favorita o comunque come possibilista, perché dovevamo ricostruire qualcosa. Sono quello che so che la cosa più importante per vincere uno scudetto è la gestione dei momenti negativi, non di quelli positivi, e quindi conterà moltissimo quando la dirigenza, la società, l'allenatore gestirà quei momenti di difficoltà. Oggi sta andando tutto bene, quindi va benissimo, vuol dire che si merita di essere in quella posizione, però è un campionato lungo e lo vince con la squadra che sa gestire i momenti di flessione che sono fisiologici in un anno. Sì, arrivano, non è che li stiamo tirando dietro, ma arriveranno ovviamente anche per il Milan. Non hai nominato il Napoli, di Rino Gattuso tra quelli che corrono per lo scudetto, e io invece che credo che il Napoli, io sono d'accordo con Conte, cosa che Conte ha detto pubblicamente dopo aver detto anche privatamente a chi lo ha sentito: guardate che state sottovalutando il Napoli. Allora, il Napoli si è incasinato con le sue mani nella questione di, insomma, della partita di Torino, adesso evitiamo di tornarci sopra, ne abbiamo parlato per 2 settimane, ma il Napoli è nato anche per alcune logiche di mercato, ad esempio la mancata partenza di Koulibaly. Demetrio, con una rosa finalmente profonda di qualità e davanti a delle soluzioni che non sono in tanti ad avere. Beh, diciamo già che l'anno scorso, ormai togliendo l'anno scorso, ma sappiamo cosa è successo l'anno scorso, della problematica gestionale più che altro, più che valoriale dello spogliatoio, c'è stato un grosso problema, no? Quindi sappiamo, società, allenatore, giocatori, quello lì, hanno perso un terreno incredibile. Ma il Napoli ormai è abituato a essere ai vertici del nostro campionato, perché tolto l'anno scorso, il Napoli negli ultimi anni è sempre arrivato secondo dietro la Juventus. Quindi io credo che il Napoli sia sicuramente un gradino sopra anche il Milan come stesura della rosa, come costruzione della, diciamo, della mentalità vincente che questa squadra ha. Inutile dirlo, ci sono sei squadre per 4 posti. Per 4 posti, secondo me. Uh-huh. Due li metto già all'interno, che sono Juventus e Inter, e non so a che punto arriveranno dei 4. Quindi tu dici che ci sono 2 posti contendibili. 2 posti per 4, ecco, questo è il problema. Ma Marino Gattuso è diventato un grande allenatore? Marino riesce a valorizzare quello che è il suo credo, quello che è il senso di appartenenza, quello che è il gruppo, poi è una persona, un ragazzo molto, molto puro. Io credo che... Aspetta, perché c'è qualche problema di collegamento con Demetrio Albertini, vediamo se riusciamo a recuperarlo per chiudere il concetto e poi salutarlo. È diventato un grande allenatore, Rino? Ma è diventato un allenatore innanzitutto, Giovanni. Questa è una considerazione, se riusciamo a recuperare Demetrio, che varrebbe la pena sottoporgli, perché io sono dell'idea che ci voglia, vale anche per Pirlo naturalmente, sono dell'idea che ci voglia un certo periodo di tempo per togliersi la maglietta e le scarpe coi bulloni e per passare dall'essere dentro la testa e dentro l'anima un giocatore e diventare un allenatore. L'abbiamo visto con lo stesso Mancini, possiamo fare n esempi, no? di ex giocatori, anche grandi giocatori, che però ci hanno messo, lo dicono loro stessi, un po' di tempo a diventare allenatori. Credo che Gattuso, passando attraverso l'Ofi Creta, il Palermo, il Pisa, insomma tutte le sue esperienze, ma anche un quinto posto con il Milan, che è stato sottovalutato. Molto sottovalutato, infatti venne allontanato giustamente per motivi che col calcio non avevano niente a che fare. Nella fine di questa stagione, ma ancor più nell'inizio di questa stagione, sta facendo delle cose, anche dal punto di vista degli equilibri e delle scelte, pazzesche. Abbiamo recuperato Demetrio Albertini. Demetrio, allora, se chiudiamo su Gattuso e la sua crescita. Sì, assolutamente. Rino ha un senso di appartenenza, ai suoi valori. Adesso non so fino a dove mi avete ascoltato, però credo che sinceramente siano le prime fondamenta delle sue squadre, e lo si è visto sia nel Milan che nel Napoli. Poi sta migliorando sempre di più, facendo esperienza con una squadra che adesso conosce di più, soprattutto direi anche con un ambiente che conosce di più, che tante volte Napoli è una piazza che deve conoscere più l'ambiente che la squadra. Sì, Demetrio, quello che dicevo prima, tu sei stato un grande giocatore, adesso fai un altro mestiere, sei un manager. Quanto ci hai messo per smettere di essere giocatore di calcio e diventare un'altra cosa? Abbastanza, perché io credo che per ogni professione ci sia un percorso, ci sia un percorso di crescita, ci sia un percorso che si chiama esperienza. L'esperienza la fai, non si compra al supermercato, si compra stando sul campo, sbagliando, condividendo e superando i problemi, e allora alla fine cerchi di avere, chiamiamo, una case history da poter mettere in campo quando ci sono le difficoltà. E quindi c'è un percorso per tutto. È vero che qualcuno, io ho sempre pensato che volevo fare il dirigente, poteva diventare un plus quello di essere stato calciatore, solo quando sarei diventato manager, un dirigente con l'esperienza di questo mondo. Credo di averla adesso e di avere la sensibilità del calciatore, quello che ha vissuto lo spogliatoio. Che insomma poi diventa il binomio giusto. Grazie Demetrio. Ciao Demetrio, a presto. Grazie a voi. Ciao. Grazie Demetrio Albertini. 800 24 00 24. Ci fermiamo per un minuto, arriva Pierluigi Pardo, cominciamo anche a caricare le vostre telefonate perché ci state chiamando. Se volete farlo, il numero verde è questo, 800 24 00 24. Siamo qui fino alle 19, tra poco meno di mezz'ora seguiremo insieme anche il primo tempo di Udinese Parma. Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Tutti mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri. Tutti mercoledì parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Ospite fisso di Due di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli. Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro. Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti. Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it. Convocati. Eccoci qui, 800 24 00 24, Pierluigi Pardo, ciao. Ciao Pier. Ciao. Allora, dopo le 18, lo dico, affronteremo il tema Juventus in maniera il più possibile ampia e dettagliata. Pier ieri ha raccontato la trasferta della Juventus a Crotone, che insomma io definisco abbastanza deludente, al di là del risultato, dove credo la sintesi di Pirlo sia perfetta. E cioè, quando la Juventus gioca a Crotone ha l'obbligo morale di uscire con i tre punti. Poi sappiamo insomma che il calcio può raccontarti storie diverse. Il problema è che noi abbiamo visto tre Juventus e, a parte la prima, abbiamo visto tre Juventus che hanno lasciato aperto tanti dubbi e questa grande sensazione di cantiere, no? Sì, no, non so se ne parliamo subito o ne parliamo dopo, però ti do un micro tweet su questo. Cioè, io credo che sicuramente ci sono degli alibi. Nei giorni scorsi Pirlo ha avuto poco tempo per lavorare, è un debuttante in panchina, quindi è assolutamente giusto dargli tempo, e probabilmente ci sono anche delle idee interessanti della Juve di Pirlo. Però è vero pure che, proprio perché c'è stato poco tempo a disposizione, forse col senno di poi, affidarsi a dei meccanismi un po' più collaudati, un po' più consolidati anche nella formazione, sarebbe stato più adatto. Cioè, questa voglia un po' di stupire, di provare, di sperimentare di Pirlo, proprio perché in questo momento ha poco tempo e ha necessariamente, legittimamente, bisogno di tempo per poter fare implementare le sue idee, ecco, questa cosa qui mi lascia un po' dubbioso, perché abbiamo visto tante situazioni tattiche in queste prime tre partite stagionali della Juve, degli esordienti, che al di là del fatto che fanno anche bene, sì, ieri Portanova, esatto, cioè Frabotta ormai è un titolare tempo. Frabotta ormai è un titolare, Portanova ieri ha fatto un buon primo tempo, ma è un po' calato, però insomma, sicuramente il ragazzo ha mostrato delle qualità. No, pensiero perfetto, però... Pier, pensiero perfetto, cioè, quello che pensavo anch'io con il radio tweet. Insomma, il discorso è questo: la prima parola che mi fa venire in mente questa Juventus è confusione che si è allungata in tutte queste partite. E notiamo, ricordiamo, vabbè, Allegri che quando prese la Juventus di Conte per un paio di mesi schierò la Juventus di Conte, esatto, ma lo stesso, esatto, Sarri prima di cambiare, l'anno scorso, ma anche Ancelotti, anche Ancelotti a Napoli, il primo periodo di Ancelotti che fu buono, bravo, fu un periodo essenzialmente di conservazione dell'idea originale. E, insomma, ecco, da questo punto di vista forse non lo so, poi da qua è facile, è tutto facile, bisogna trovarci nelle situazioni, però la mia sensazione è che Pirlo forse un approccio un po' più graduale, un po' più conservatore in questo avvio di stagione gli darebbe più possibilità. Cioè, non vedere Quadrato in campo ieri mi ha colpito. Poi è vero che c'è anche la Champions, la gestione delle energie, però insomma, poi quando è entrato, secondo me ha sistemato tante cose, tanto per fare un esempio. Sì, poi capiremo anche se c'è un caso Dybala. Alessandro da Milano, Alessandro. Buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Complimenti per la trasmissione. Vai. Due considerazioni su quello che diceva prima Giovanni. Allora, uno, Frabotta in questo momento è titolare perché Alessandro è fuori. È infortunato, perché col rientro di Alessandro Frabotta penso che farà la spola tra la panchina e la titolarità nell'Under 23. Due, volevo chiedere a Giovanni dove aveva preso il diploma di grande allenatore Rino Gattuso, visto che nel suo palmarès vedo solo una Coppa Italia vinta contro una Juventus inesistente. E l'ultima considerazione, cioè, infatti Alessandro l'abbiamo chiesto se è diventato un grande allenatore, se lo sta diventando. Io ci metto, ragazzi, perché non tutto si calcalcola soltanto a trofei vinti, certo, però ad esempio abbiamo nominato ieri il quinto posto molto sottovalutato preso con il Milan. Poi certo, dopo Rino è il primo che sa. Però sentiamo, che c'è deve ancora una crescere. Cosa che ci voleva chiedere. Vai Ale. E l'ultima cosa, d'accordissimo con Giovanni, con Carlo e con Pierluigi, ma Pirlo non ha tempo. Cioè, nella Juventus non esiste un anno zero di esperimenti. Accettando di fare l'allenatore della Juventus, capisce anche lui che non ha tempo, perché io mi ricordo, e se voi vi ricordate benissimo, dopo Sassuolo-Juventus, stagione 2015-16, quando ci fu una mezza rivoluzione alla Juve dopo la finale di Berlino, Andrea Agnelli all'assemblea degli azionisti disse ad Allegri che non poteva esserci un anno di transizione. Sì, però Alessandro, quindi, io ricordo bene perché c'ero. Quella Juventus in quel momento storico era dodicesima, era quattordicesima a 12 punti, e lui disse non è accettabile che la Juventus occupi questo posto, poi che alla Juve si debba sempre vincere o partire per farlo, insomma basta leggere la storia dell'Albo d'Oro. Vai Pier, se no, mi rispondi allora, a una delle sollecitazioni. Ti rispondo su quella che mi eccita di più in questo momento, che è Gattuso. Cioè, Gattuso sta facendo un lavoro incredibile, la società secondo me gli ha dato una grande mano perché ha fatto un mercato importante, Osimhen è un investimento clamoroso e la squadra ha una profondità di rosa secondo me veramente importante, per cui è chiaro che stiamo ancora misurando, stiamo un po' pesando. Io all'inizio della stagione dicevo che avevo una sola certezza, che gli equilibri si stessero riassestando, cioè avevo addirittura parlato di sette sorelle, magari non sono sette, magari sono quattro, sono cinque, però veramente quest'anno abbiamo un gruppo di squadre che sono di livello molto simile e il Napoli in questo momento è forse addirittura la più brillante. Fino a ieri alle 3 la più brillante era l'Atalanta, Adesso il Napoli per la partita che ha fatto ieri con l'Atalanta merita tutti i complimenti del mondo e Gattuso secondo me merita un complimento in assoluto. Il fatto che lui sta cambiando, lui sta, l'ha detto, lo riconosce, poi lui sai che ha sempre questa straordinaria sincerità, a volte quasi troppa, dice sempre quello che pensa e lui ieri l'ha ribadito, cioè lui comunque ha delle idee di gioco, per esempio legato al possesso palla, però in un momento come questo, che Osimhen gli dà quella profondità, che i centrocampisti si inseriscono in questo modo, dice se ho i 3 contro 3, ma perché devo fare lo stesso palla? Vado a fare il gioco diretto verticale, sì, e è quello che sta facendo il Napoli in questo momento. Assolutamente. Vittorio da Modena, Vittorio. Buonasera, grazie per la convocazione. Vai, buonasera a te. Buonasera. Io allora, due cose. La prima, io volevo parlare delle maledette fastidiose nazionali, ma non perché io non sono un nazionalista, ma perché non è possibile che nel 2020, addirittura in tempi di Covid, con dei club quotati in borsa che fatturano centinaia di milioni, ci siano le pause per la nazionale, i giocatori oltre a tornare infortunati adesso tornano pure per il Covid. Guarda Vittorio, poi ci dici la seconda, sei più radicale tu dei proprietari di quei club che fatturano centinaia di milioni di euro, che non vogliono cancellarle, chiedono un calendario leggermente più razionale mantenendo lo stesso numero di giorni però di rilascio delle nazionali. Spero che dopo il 2024 questa cosa succeda. Su quest'anno si poteva forse fare qualcosa di meglio. Vittorio, dai, la seconda, allora io sono juventino, ho un po' di amarezza per ieri perché abbiamo visto che capita anche alla Juve, no, di subire delle volte l'arbitro, e sicuramente ieri nel dubbio tutti gli episodi sono stati dati non a favore della Juve. Io volevo solo dire questo, se si perdono, un'attenzione che noto io nei calci di rigore, se si perdono 4-5 minuti per guardare il fuorigioco di un millimetro di Morata o di altri giocatori, perché è capitato anche altre squadre, perché non si guarda la rincorsa di Šinić? A me mi sembra proprio al limite della regolarità, perché mi sembra che si fermi. Poi adesso intendi sulla battuta? Sulla battuta, perché cioè, ha Allora, un conto è Giorginio che rallenta. Ma allora, quindi... guarda, 18 e sì. 20 lo chiediamo a Luca Marelli in Var Anatomy, che così l'aggiungiamo. Io non ero segnato questo Luca particolare. Col quale ho una specie di telepatia ieri, subito dopo, perché fra la situazione del fuorigioco di Morata, del possibile fuorigioco di Morata, si vedeva occhio nudo che era sul filo del fuorigioco. E mi ha mandato un messaggio in tempo reale mentre si stava definendo, e mi ha detto ci vorrà del tempo, perché evidentemente anche lui sa che la composizione di quella è un meccanismo assolutamente geografico, scientifico, quindi dobbiamo partire dalla scienza, ecco, la scienza però ci mette del tempo e in effetti ci sono voluti credo 3 minuti e mezzo, 4 minuti per un fuorigioco adesso ne parliamo, parliamo di quello, parliamo anche del derby. Allora, comunque ce lo siamo segnati, Vittorio, rincorsa di Simi sul rigore era irregolare, sì. 18:20 Var Anatomy, 17:46 il traffico, poi andiamo con Filippo Maria Ricci e cerchiamo di capire questo effetto delle nazionali in giro per l'Europa, non soltanto in Italia. In Spagna ad esempio sono cadute Real Madrid e Barcellona, per quello noi siamo partiti dal fatto che comunque il Napoli ha avuto un vantaggio a rimanere qui ad allenarsi per 2 settimane in ritiro, è la bolla, ma di fatto era un ritiro. Traffico, torniamo subito. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 0024. Tutti convocati. Convocati. La mete para Negredo, bien para Lozano, puede ser Lozano. Del Cádiz, ¿qué era más? Sí, señor, muy bien Negredo para Lozano. Se la pica Courtois. Queridos amigos y amigas, 17 minutos, gana Cádiz 1-0. Ne parliamo dell'effetto di queste 2 settimane di nazionale. In Spagna hanno perso Real Madrid, Barcellona e anche il Siviglia. In Inghilterra ha pareggiato il Liverpool, però giocava contro l'Everton lanciatissimo di Ancelotti, ha pareggiato il Chelsea con il Southampton. In Italia hanno perso Inter, Atalanta, Lazio, ha pareggiato la Juventus a Crotone. In Germania ha pareggiato il Borussia Mönchengladbach, che è squadra che quest'anno fa la Champions League. Saluto Filippo Maria Ricci. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. E allora che succede, soprattutto in Spagna? Insomma, la teoria... è interessante, poi ovviamente se ne può parlare, però sicuramente c'è qualcosa, diciamo questa pausa per le nazionali ha sconvolto un po', no? Una serie di anche di routine, se vogliamo, ha fatto scoppiare un po' di bolle varie, e sì, insomma, che Madrid e Barcellona perdessero insieme senza segnare con 2 squadre, sì, il Getafe ovviamente è una squadra anche decente e preparata, insomma, però il Cadiz a Madrid non aveva mai vinto, sicuramente fa pensare e dà adito a una riflessione su quello che è stato il peso delle nazionali, il peso di queste 3 amichevoli consecutive in pochi giorni, tanti viaggi anche molto lontani, viaggi anche un pochino diversi da quelle che erano prima, magari anche con più pensieri, se vogliamo, con più preoccupazioni, e questa è la realtà. Io direi che per chiudere questa analisi dobbiamo aspettare il primo turno di Champions, vediamo martedì e mercoledì come vanno Madrid, Barcellona e anche le altre squadre che hai menzionato, e poi vediamo se è vera crisi o se magari invece questo problema delle nazionali è stato contenuto a un turno di campionato. Sì, poi Real Madrid e Barcellona, mi pare, su questo non so se siamo all'unanimità, siano altro che cantieri aperti in questo momento. Esatto. Appunto, no, ma infatti c'è questa cosa qui che secondo me riguarda un po' la Juve, che poi magari troverà una sua strada, per carità, può essere benissimo, però sicuramente questo è un anno per la Juve di ricostruzione, no? di cambiamento, di riforme, è un anno in cui cambiano tante cose. E mi pare che in Spagna la situazione sia abbastanza simile, e se vogliamo forse anche in Inghilterra gli equilibri delle squadre che hanno dominato in questi anni non sono forse più così sicuri. C'è stato anche poco tempo quest'estate e ovviamente tante incertezze economiche per poter fare programmazione, per poter fare mercato, quindi la sensazione è che il mondo del calcio nei principali campionati in giro per l'Europa viva una fase secondo me un po' di rimescolamento degli equilibri. Poi magari la Juve vincerà il campionato, Barcellona e Real Madrid faranno punto a punto come tutti gli anni, può essere benissimo, però ho la sensazione che forse anche complice questo momento che porta con sé delle inquietudini rispetto agli investimenti che sono stati fatti negli anni scorsi, ci sia una ridefinizione degli equilibri e in generale ci sia più equilibrio, cioè vedo meno sì, dittature. In Spagna io non vedo quest'anno una dittatura di Barcellona e Real Madrid, ma ripeto, no, magari no, assolutamente, se poi aggiungi tutto il caso Messi, no? Quindi prima c'era sempre questo Messi, Messi, adesso Messi insomma è in difficoltà, il Real Madrid è ancora lì che cerca il centravanti, non avendo potuto fare mercato, perché comunque queste due squadre praticamente il mercato non l'hanno fatto, e le cose, ieri dobbiamo aggiungere anche il Siviglia, ieri il Siviglia ha perso a Granada, insomma ecco, sono Siviglia e Barcellona hanno fatto un punto nelle ultime due partite, su sei, insomma ecco, sono d'accordo con Pierre, diciamo è tutto da vedere, poi magari arriviamo, che ne so, ai primi di gennaio e tutto si è ristabilito. Filippo, diciamo, aspettiamo un mese, ordine. Solo adesso entriamo a regime, perché adesso con il regime delle coppe, con le squadre che comunque non hanno più soste nazionali, amichevoli, viaggi eccetera. Beh no, eccetera. A novembre c'è un'altra sosta però. Però da qui, e adesso da giocano, qui alla... adesso è interessante perché fanno 4-5 partite in pochi giorni. Fanno le famose 7 partite in 21 giorni. Non c'è mai stato nella storia un tour de force come questo. Per cui secondo me l'appuntamento possiamo darcelo a metà dopo l'altra pausa internazionale, sì, no? Sì. E vediamo come sarà, perché è complicato, molto, adesso per me è ci sono 3 settimane consecutive di coppe europee. Ragazzi, ci sono delle variabili che sono indiscutibili, cioè il Milan ha giocato delle partite che poi ha vinto senza Ibrahimovic. Abbiamo visto ieri sera che cos'è Ibrahimovic. La Juve ieri ha giocato senza Cristiano Ronaldo, non è un dettaglio, no? Ci sono delle situazioni quest'anno, delle variabili, delle incognite, alcune delle quali anche ovviamente molto tristi e dolorose e che ci inquietano a livello complessivo, che hanno sicuramente o possono sicuramente avere un effetto sul campionato e sugli equilibri anche tecnici della stagione. Phil, è vero che a Barcellona c'è chi ha mandato un burofax dicendo che non vuole tagliarsi lo stipendio? Ho letto qualcosa. No, aspetta. Hanno mandato il burofax dicendo che diciamo che non vogliono però è in treno l'hanno firmato. È un pochino più complesso di quello. Allora, diciamo la situazione è perché poi dobbiamo aggiungere, almeno per quanto riguarda la Spagna, una situazione economica di crisi autentica. Cioè Real Madrid e Barcellona sono in autentica crisi economica. Cioè non è che dici non fanno il mercato. No. Qui se due colossi così abituati ad avere tantissimi soldi, un terzo del fatturato da quello che gli inglesi chiamano il match day, cioè no? Gli incassi al botteghino più tutto quello che è collaterale, quindi vuol dire le magliette, i ristoranti. Sì, se glielo azzeri è un problema. Esatto, cioè non ce l'hanno, zero. Da lì si passa da un terzo del fatturato. E allora ovviamente il Barcellona e il Real Madrid sono tornati alla carica dicendo ragazzi bisogna ridursi lo stipendio. Al Barcellona la cosa non è stata accettata, o meglio, cioè la gran parte della rosa ha mandato questo famoso burofax, no, reso popolare da Messi, dicendo no, noi non accettiamo, diciamo, la riduzione salariale. E 3 giocatori, Ter Stegen, De Jong e Lenglet, non hanno firmato il burofax, ma in realtà per ragioni un pochino più profonde, perché diciamo loro vogliono distanziarsi, vorrebbero due regimi separati, uno per gli impiegati, uno per loro, cosa che già mi sembra giusta, perché insomma l'importante è salvare gli impiegati che magari guadagnano 1000, 1500, 2000 euro e non 50 milioni e non un ingaggio. Per cui e comunque diciamo c'è una spaccatura all'interno dello spogliatoio su una questione comunque molto importante e delicata, perché il Barcellona non può permettersi di continuare a pagare gli stipendi che ha non solo promesso, ma diciamo come si può dire messo per iscritto negli anni scorsi ai suoi giocatori. Il Madrid è un pochino più indietro in questo senso, perché probabilmente ha in questo momento ha una struttura finanziaria un pochino più solida, ma per poco. Per cui questo è anche importante, anche nelle teste dei giocatori, insomma, pensare che magari devono ridursi lo stipendio del 30%. Sì, non è un passaggio semplice, anche se chiaramente arrivano a fine mese senza problemi loro e le generazioni successive. Va bene, dobbiamo fermarci. Grazie a Filippo Maria Ricci. Ciao Phil. Grazie a voi, alla prossima. Ciao. Allora, aspetta, siamo lunghi, Pier. Dobbiamo fermarci, c'è il GR, tanto ci ritroviamo subito dopo, quindi ci aggiorniamo soltanto. Ci sarà tutto il discorso sulla Juventus, poi Varanatomi, poi parliamo anche di MotoGP e Giro d'Italia. 800 24 00 24, pochi minuti, vi aspetto qui. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Tutti convocati. Noi siamo in costruzione e abbiamo fuori parecchi giocatori, non solo loro. Se guardiamo la rosa ce ne mancano 5-6 e quindi è difficile poi programmare e costruire una squadra in pochi giorni. Però lo stiamo facendo, Siamo una squadra giovane che ha bisogno di lavorare. Abbiamo lavorato poco in tutti questi primi mesi perché i giocatori sono stati tanti in nazionale, quindi i tempi per lavorare sono stati veramente pochi. Però i giovani devono fare esperienze, la stanno facendo giocando queste prime partite e quindi capita che in queste occasioni qualche leggerezza la possano fare. Tante squadre che lotteranno per il titolo, che sono attrezzate e si sono attrezzate per far questo, quindi sarà una battaglia giornata dopo giornata, bisogna cercare di fare i punti perché è meglio farne che lasciarli per strada, però purtroppo noi adesso ne stiamo perdendo già qualcuno, però siamo in costruzione, sono sicuro che ritorneremo presto davanti. Così ha parlato Andrea Pirlo ieri sera dopo il pareggio 1-1 contro il Crotone. Intanto è partita Udinese-Parma, 11° minuto sul cronometro, 0-0 tra Udinese e Parma. Ricordo Parma che ha 7 giocatori assenti per Covid, eppure qui regolarmente a giocarsi la sua partita, seppure fortemente condizionato da quella che è la situazione di questo momento. Nel GR avete sentito i dati complessivi, questi sono minuti in cui si discute del futuro dello sport, in questo caso non del calcio professionistico ma dello sport che riguarda tutti voi e tutti noi, quello da milioni di persone, i dilettanti, lo sport di base, le associazioni, i ragazzi, le scuole, e ognuno insomma si faccia l'opinione che vuole su questo tema. Saluto Alessandro Birindelli, ciao Ale. Ciao, buonasera. Ciao. C'è con noi Pierluigi Pardo, ciao Pier. Ciao. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Allora, io sono abbastanza, e partiamo da qui se siete d'accordo, faccio un po' fatica ad avere un pensiero formato su Pirlo e su questa prima Juventus che ci sta facendo vedere, nel senso che c'è un po' di sensazione di confusione, di una squadra che accetta l'avversario viso a viso come se fosse l'ultimo round di un match di pugilato, e quindi manca equilibrio spesso. Anche ieri sera in alcune ripartenze è mancato chiaramente l'equilibrio. Però devo dirvi la verità, sentire parlare Pirlo in quel modo mi ricorda, non so se siete d'accordo, Mancini nelle prime convocazioni della nazionale, quando un po' lo criticavamo, lui diceva: beh, io i giovani devo farli giocare, poi vedrete che pagherà. Nella nazionale ha pagato, nella Juve vedremo. Non so, Alessandro, tu che opinione hai? Ma io, guarda, sentendo le parole anche del presidente, c'è stato il consiglio di amministrazione, l'approvazione dei bilanci e tutto, quindi ha fatto una lunga intervista. E nelle sue parole c'è la sensazione, c'è la voglia, e c'era la voglia di ricostruire, di progettare, di riprogrammare, e questo ha portato quest'anno a tantissimi giovani. È un tecnico giovanissimo, con delle idee ben precise di calcio. Per svilupparlo in campo, secondo me, queste idee c'è bisogno di lavoro. Non puoi farlo quando c'hai nazionali, quando hai situazioni di giocatori infortunati come può essere adesso alla Juventus, una serie di condizionamenti che ti hanno portato, ti stanno portando a non avere equilibrio in campo. Lo vediamo a volte una squadra un po' sfilacciata, con i reparti un po' lunghi, non c'è armonia quando si deve fare una pressione alta tutti assieme. Perché come ha detto lui nell'intervista, c'è stato poco tempo. Non vorrei che quindi sono mali stagionali. Sì, però non vorrei che questo tempo poi diventasse troppo, e poi troppo è tardi poi per rimediare a quegli obiettivi stagionali che chiaramente la Juventus si deve ambire. Sì, sì. Agnelli ha parlato di creatività, eh? No, ma io rifaccio mio il pardo pensiero di prima, rifaccio mio il pardo pensiero di prima, così me lo vendo come buono. No, tanto non ti ascolta. Alessandro Teglio, appunto. Lo gira Alessandro Birindelli. Cioè, sì, tutto questo va bene, Alessandro, però non è il caso, non era forse il caso, non sarebbe il caso di fare tutto con un po' più di calma, cercando quantomeno qualche piccola certezza nel passato a livello di scelte di giocatori. Cioè, va bene la rivoluzione, ma tutto subito non rischi di creare davvero un gran casino. Questo si chiama plagio. Vai Alessandro. Sono d'accordo con te, sono d'accordo. Si può anche fare qualcosa di diverso nel momento che non hai tutto questo tempo a disposizione e nel momento che devi aspettare anche un pochino anche le scelte di far giocare tutti i giovani in una partita unica. Ecco, questo può essere discutibile. Secondo me quando c'è poco tempo e hai tutte queste partite ravvicinate, secondo me qualche certezza in più in campo io, fossi stato l'allenatore o lo staff, l'avrei messa, ecco. Poi noi non conosciamo le condizioni fisiche di tutta la rosa, quindi avranno valutato tutto, ecco, questo, anche perché tra tre giorni c'è la Champions. C'è la Champions, quindi c'è da pensare anche quella. Sei d'accordo anche tu, Pier? Fammela fare la domanda. Sono d'accordo. Me la riprendo. E riprendo la paternità. No, questo lo penso. Poi, detto questo, nello specifico Portanova ha giocato bene, Framotto ormai è diventato un giocatore quasi titolare di questa squadra, anche se certamente poi Alessandro potranno cambiare le gerarchie. Io vedo alcuni nodi non semplicissimi, al di là del fatto che poi questa squadra, non va dimenticato, ieri era senza Cristiano Ronaldo, ha bisogno di tempo secondo me per adattarsi. Ieri Morata secondo me è stata la nota più positiva in assoluto, nel senso che la partita di Morata rispetto al debutto è stata completamente diversa, è stata una rivoluzione. Ha fatto un gol, ne ha sperato un altro col colpo di testa sul palo, poi il fuorigioco di 3 centimetri che c'era, ma che chiaramente comunque dal punto di vista suo, lui il gol l'aveva trovato. No? Aveva fatto tutto per bene. Quindi la prestazione secondo me è assolutamente molto positiva e molto incoraggiante. Altre cose mi convincono meno, mi convince poco Arthur, ma non perché non mi convinca come giocatore, nel senso che Arthur è un giocatore che abbiamo imparato a conoscere in Spagna, un giocatore importantissimo in un centrocampo che funzionava molto bene. Ho la sensazione che tocchi tanti palloni, che Pirlo voglia una maggiore velocità invece nell'esecuzione. L'acquisto di Chiesa è un acquisto secondo me più di prospettiva che altro, abbiamo detto, nel senso che il ragazzo è un talento, è chiaro che 60 milioni in un momento economico come questo, perché alla fine di quello si parlerà tra bonus e diritto di riscatto, insomma per un giocatore in un ruolo, cioè forse c'erano altre priorità dal punto di vista della Juve di oggi, dal punto di vista delle soluzioni, però è molto interessante anche Kulusevski, lo vediamo fluttuare continuamente fra due o tre diverse posizioni e ci sono tante idee e abbozzi di idee, poi complessivamente diciamo c'è un quadro evidentemente non ancora composto. Allora abbiamo il traffico, chiedo ancora un attimo di pazienza ad Alessandro Birindelli, perché poi voglio chiedergli proprio un giudizio sul debutto di Chiesa in bianconero dopo una settimana difficile, perché anche in nazionale non aveva rimediato delle gran pagelle. Questa mattina nella media insomma prende tra il 4,5 e il 5, ha un 6,5 da Tutto Sport, ma diciamo fondamentalmente la sua partita, e non solo per l'espulsione, viene giudicata negativamente. Il traffico, torniamo subito. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati. Sempre 0-0 tra Udinese e Parma, 19° minuto del primo tempo. Udinese che si è resa pericolosa in un paio di situazioni di ripartenze, partita però fin qui fondamentalmente equilibrata. Siamo con Pierluigi Pardo e Alessandro Birindelli. Allora, mi dici come hai visto Chiesa, Alessandro? Non era facile dopo una settimana tra nazionale, tra passaggio dalla Fiorentina alla Juventus, e sappiamo quanto è difficile per per un ex Viola pare questo anche emotivamente, secondo me, psicologicamente. Ricordiamoci che è sempre un ragazzo giovanissimo, quindi anche se molto spacciato nel modo di affrontare le partite e le situazioni, però sicuramente un po' di strascico se l'è portato dietro. Lui è un giocatore che ha bisogno di campo, ha bisogno di correre, ha bisogno di avere spazio. E quando trova traffico fa un pochino di fatica, se la squadra è lenta nel muovere palla, di portare palla in avanti lentamente, lui va in difficoltà, specialmente adesso che secondo me non è neanche in un momento di forma brillantissima, quindi questo, anche il primo dribbling o l'accelerata da fermo gli viene meno, e quindi va un pochino in difficoltà, si intestardisce, inizia a fare un dribbling di troppo, un tocco di troppo, e questo lo manda un pochino fuori giri. Però secondo me è un giocatore di grandissima prospettiva. Non so quanto necessità avesse la Juventus di acquistarlo adesso, come dicevate voi, secondo me le priorità potevano essere altre, però ti ripeto, hanno avuto questa opportunità, l'hanno fatto, e quindi insomma ci portiamo a casa un grandissimo giocatore di grande prospettiva. Sì, c'è il rischio che venga messo un po' in mezzo per quella valutazione lì, dei 60 milioni, leggo sui social anche tanti tifosi della Juventus che esprimono qualche... Secondo Gio, io ho sempre fatto fatica fra Giovanni e Giuseppe, è un problema che mi porto dietro dalla vita, perdonami. Gio, secondo me appunto il giocatore non si discute, nel senso che in prospettiva è veramente un talento del calcio italiano. Se guardo il centrocampo della Juve e per esempio faccio il paragone col centrocampo che ci aveva Morata nella sua prima esperienza alla Juve, penso che lì forse si potesse fare qualcosa di diverso, qualcosa di più. Penso a Rakitic che è andato via praticamente a zero dal Barcellona e tornato al Siviglia, penso a Vidal che secondo me è un grandissimo colpo. Certo, lì c'è l'effetto Antonio Conte, indiscutibile, che sicuramente avrà avuto i suoi argomenti nel riuscire a convincerlo, però ecco, ho la sensazione che lì la Juve potesse fare qualcosa di più. Chiesa è un giocatore, per me non ha giocato male ieri, al di là dell'episodio che adesso tratteremo con Luca dell'espulsione, che non è un dettaglio. La partita non era stata, ha fatto comunque l'assist del gol dell'1-1, ma secondo me farà delle cose importanti, ma in un settore dove secondo me le alternative non mancano così tanto alla Juve, mentre vedo in mezzo al campo una mancanza rispetto al centrocampo della Juve di queste ultime stagioni. Non mi convince del tutto, ecco. La vedi un tono sotto. Va bene, allora ringrazio Alessandro Birindelli, ciao, grazie, alla prossima. Ciao Alessandro. Ciao, grazie, ciao a tutti, buona serata. Allora, buona serata anche a te. 23esimo 0-0 tra Udinese e Parma, e apriamo la pagina di VAR Anatomy con Luca Marelli. Sembrava un contrasto normale di gioco con il piede non a martello, quindi magari un'ammonizione era più giusta. Queste le parole di Pirlo a proposito del rosso a Federico Chiesa. Ripartiamo da qui. Ciao Luca. Ciao, ciao a tutti. Allora, questa mattina io ho letto tante critiche a Forno, un po' su tutti i giornali, nelle varie moviole, per quel cartellino rosso. Secondo me ha fatto un'ottima partita Forno, anche se molti tifosi della Juventus non sono d'accordo. Adesso proviamo a ripercorrerla, e io partirei, se sei d'accordo, proprio da quello che è fondamentalmente l'episodio centrale. Quindi siamo al quarto d'ora del secondo tempo, Chiesa che entra su Cigarini, cartellino rosso. Ma guarda Giovanni, stamattina io ho scoperto la differenza tra piede a martello e piede a piattone. Cioè il concetto non è questo, il concetto è che quello che bisogna punire è l'attitudine del giocatore. Il giocatore, la rigore sproporzionata in questo caso deve essere valutata in base a tanti parametri. Il parametro relativo al piede è che ci deve essere una caviglia rigida, che sia aperta a caviglie verso l'esterno, che sia dritta, non cambia assolutamente nulla, è sempre piede a martello, cioè. E questo è il concetto. Io non so da dove sia nata questa distinzione, che francamente non ha veramente alcun senso. In ogni caso, l'intervento di Chiesa, in presa diretta, tutti abbiamo pensato al cartellino rosso, poi l'abbiamo rivisto e bene o male il cartellino rosso ci sta, che poi possa essere discutibile da parte di qualcuno. ne prendo atto. Per quanto mi riguarda, il cartellino rosso è assolutamente corretto. Forse, e nell'anno scorso abbiamo parlato tante volte, forse nella scorsa stagione sono stati imperdonati un po' troppo di questi episodi e ci siamo un po' abituati a vederli declassificare come cartellini gialli. Ma questi sono cartellini rossi. Sì, sempre. Posso abbracciare talmente Luca Marelli che secondo me ha spiegato la cosa e questo dovrebbe essere, cioè è un episodio chiaramente, correggimi se sbaglio Luca, di interpretazione arbitrale. In questa fattispecie qui l'arbitro ha una sua discrezionalità, vede l'episodio e stabilisce la gravità, e qui l'ha stabilita secondo me sulla velocità dell'impatto, sulla posizione del piede, sul ginocchio rigido di cui parlavi, la vigoria sproporzionata, e quindi ha dato il rosso. Per dirti, io avevo Roberto Gravero che insomma non credo che si possa essere tacciato è una bandiera del Torino, ma è un professionista che vede le cose e assolutamente, come sempre fa, giudica quello che vede. Qualcuno l'ha visto giallo, qualcuno l'ha visto rosso, io sono d'accordo, secondo me il rosso ci sta, però questa cosa qui dobbiamo mettercela nella testa, cioè a differenza di altre situazioni dove il contatto c'è o non c'è ed è decisivo, per esempio l'episodio, adesso se ne parliamo, del calcio di rigore, e lì c'è poco da discutere, secondo me è un'ottima chiamata, sì, da parte dell'arbitro Bonucci, che vede quel contatto lì. Qui invece è un episodio di interpretazione arbitrale, qualcuno ha citato l'esempio di Vesino e mi sembra giusto, e anche lì era stato dato il giallo e poi è stato il però rosso. Proviamo Piera a far fare a Luca allora un paragone più attuale, visto che ieri c'è stato un altro episodio di piede su Caviglia, all'inizio secondo tempo in Inter Milan, che sì, già ammonito. Il tema non era se fosse almeno da giallo, perché su quello credo non ci sia neanche di discussione, ma se potesse essere da rosso diretto e quindi portasse eventualmente all'intervento del VAR, che invece è rimasto silente. No, non era da rosso, però è un episodio molto curioso, perché nel caso in cui il Milan nel contropiede avesse segnato con Leao, il VAR sarebbe intervenuto sicuramente, perché è un episodio che Mariani si è perso completamente, non ha fischiato assegnando una punizione e basta, non ha fischiato proprio niente perché se l'è proprio perso. Se Leao avesse segnato, che sì, sarebbe stato espulso. Perché? Perché il VAR avrebbe richiamato Mariani a rivedere l'episodio, che in partenza dell'azione, cioè all'inizio della famosa app, l'azione d'attacco, c'è stato un fallo, e il protocollo prevede che nel caso in cui un'azione venga rivista, l'arbitro ha la facoltà di utilizzare i cartellini che si è perso durante l'azione. Anche quello giallo, è un po' un paradosso. Sì, esatto, è un po' un paradosso, ma se il Milan avesse segnato in quella circostanza, che si sarebbe stato espulso. E il gol invece sarebbe che stato Leao non ha segnato, annullato. Chiaramente, certo. Allora, restiamo su Crotone-Juventus. Credo siamo abbastanza d'accordo, Luca, che il contatto Bonucci-Reca fosse da rigore, giusto? Sì. Posso dirti, secondo me è una bella prestazione dell'arbitro, nel senso che non mi sembrava facile da vedere. No, per niente. Non so se Luca è d'accordo, è un rigore che forse 15 anni fa o 20 anni fa, insomma, nel calcio antico non si avrebbero dato. Perso. Ma in questo momento è un rigore assolutamente... sacrosanto. Ma sulla rincorsa di Simi invece, evocata dal nostro amico che ha chiamato prima? Ma guarda, la rincorsa di Simi è corretta. L'irregolarità nella rincorsa si riscontra solamente nel caso in cui il giocatore incaricato del tiro fermi l'azione di corsa nel passo precedente al tiro. Cioè, non so, si porta col destro per tirare, col sinistro pianta il piede per terra a sinistra, si ferma, aspetta il movimento del portiere e passa il pallone. Ecco, in questo caso sarebbe stato da ripetere con ammonizione del giocatore per comportamento antisportivo. Una rincorsa invece anche fermata durante la rincorsa, ma nei passi precedenti all'ultimo, è regolare. Questa è una norma che è stata modificata 3-4 anni fa circa. Dimmi solo con un sì o un no, il VAR può analizzare la rincorsa? Bella domanda. In linea di massima sì. In linea di massima sì, perché una rete se la rete viene realizzata o comunque il rigore viene sbagliato, sì. In realtà sì, sì. Certo. E poi per chiudere Crotone Juventus, il gol annullato a Morata, che chiaramente, diciamo, è col piede al di là dell'ultimo difensore. Proviamo a ricordare, Luca, come si muove la macchina del VAR nell'identificare il momento in cui parte l'ultimo passaggio. Il famoso frame. Luca, non so se ci sentivi prima, ma ho svelato il tuo messaggio in tempo reale dicendo ci vorrà del tempo, perché avevi capito che... Poi, Sì, sì, ma era abbastanza chiaro che ci sarebbe avuto il tempo, perché quando si tratta di posizioni irregolari di pochissimi centimetri ci vuole tutto il tempo. Adesso spieghiamo il perché. Aggiungiamo il fatto che, questo me lo può confermarlo più Luigi, io ho detto secondo me è fuori gioco prima ancora che iniziasse la review. Però quella è semplicemente... Però qui ti ho detto quella semplicemente questione, perché veramente parliamo di Come si legge quell'ultimo momento? Così lo ricordiamo, perché è dibattito che oggi infuria tra i tifosi juventini. Allora, consideriamo che è stata analizzata tutta l'azione. L'azione deve essere analizzata dall'inizio. Perciò la prima posizione che è stata valutata è stata quella di Cuadrado. E già lì hanno perso un po' di tempo, perché bisogna trovare l'inquadratura, bisogna trovare il frame giusto, bisogna tracciare le linee. E hanno capito che, hanno visto che la posizione di Cuadrado era regolare. Dopodiché si è passati alla posizione di Morata. E non è per niente facile, perché il frame utilizzato, che è stato quello più corretto, la solita telecamera dei 16 metri dell'area di rigore, avete notato che il giocatore che passa il pallone a Morata è coperto da un giocatore del Crotone, perciò individuare il momento in cui il pallone viene toccato per l'ultima volta non è per nulla facile. Dopodiché viene tracciata la linea, vengono individuati dei marker con il crosshair, dopodiché lo software tira la rigore. Ecco. No. Lo vedono in Inghilterra. Ecco, questo è una cosa, è qualcosa che individuo, sì, e farei vedere anche in Italia. Hanno avuto da discutere parecchio ieri in Liverpool Everton. Anche Oliver ha commesso un bel errore. Mm. Ha fatto un bel errore, perché effettivamente fuori gioco c'era, ma il portiere Pickford andava sanzionato disciplinarmente, perché non un'azione fermata per fuori gioco non assolve un portiere da un intervento di quel genere. E quindi dall'eventuale sanzione disciplinare. Abbiamo meno di un minuto, Luca. Dunque, di che sì, abbiamo già parlato. Andava espulso per somma di ammonizioni, ma non era da rosso diretto, quindi non ci può essere l'intervento del VAR. Ci sarebbe stato in caso il Milan avesse segnato sul prosieguo della stessa azione. Mariani Maluccio, complessivamente, ma non abbiamo tempo di analizzare tutto, ma insomma manca un po' di coerenza nella gestione complessiva della partita. Però parliamo del rigore tolto a Lukaku, nel senso, prima ha segnato, poi tolto per il fuorigioco con l'ultimo tocco di Kjaer, che ha fatto molto discutere. Allora, ti do la mia versione, perché abbiamo già parlato questa mattina, non siamo d'accordo, però ci sta, questo ci sta. Allora, il primo tocco di Kjaer è una deviazione, non è una giocata, perché il pallone gli capita in mezzo alle gambe mentre lui sta correndo diritto, si trova il pallone addosso senza nessuna volontà di poterlo indirizzare giocare da qualche parte volontariamente, semplicemente è un rimpallo. Il secondo tocco di Kjaer non rimette in gioco Lukaku, perché? Perché visto che il primo tocco è un rimpallo, praticamente è come se non fosse esistito, cioè dobbiamo pensare che poteva essere un colpo di vento, ecco, cioè qualcosa che non è mai esistito, perché non deve essere valutato essendo un rimpallo. Nel momento stesso in cui Kjaer interviene, quel contatto non ha più conferenza col primo episodio, ma è un episodio differente. Bisogna tornare indietro all'ultimo passaggio involontario, ma il concetto di giocata deviazione non vale per l'attacco ma solo per la difesa, e l'ultimo contatto è di Eriksen. Nel momento in cui Eriksen tocca il pallone per ultimo, Lukaku è in fuorigioco di un metro e mezzo, e perciò dalla sua posizione trae un chiaro vantaggio, perché avendo un metro e mezzo di vantaggio trae un vantaggio dalla sua posizione. In quel momento il fuorigioco deve essere sanzionato. No, mio parere, lo dico, ma poi non abbiamo tempo per approfondire, è che diciamo Mariani sia stato fortunato, perché poi ci sarebbe stato da discutere molto sull'impatto Donnarumma-Lukaku, non tanto sull'impatto che evidentemente c'è, il fianco contro il piede di Lukaku, ma su quel sottile confine che passa tra andarsi a cercare un rigore, io non uso la parola simulazione perché in questo caso non c'è, perché c'è il contatto, ma c'è provocare di fatto un impatto quando l'avversario, in questo caso il portiere, fa veramente di tutto per restarne distanti. Ieri Donnarumma a momenti si metteva le mani dietro la schiena, per intenderci. Però diciamo che il VAR ha tolto d'impaccio Mariani, non avrebbe mai potuto togliere, ripetimi, dimmi solo questo, Luca. No, eventualmente quel rigore non l'avrebbe mai potuto togliere. No, perché un contatto c'è, una valutazione del campo, e nel caso di calcio rigore sarebbe rimasta la valutazione del campo. Ciao Luca, settimana prossima. Ciao. A voi, ciao, buon lavoro. Ciao Luca Marelli. Varanatomi, intanto 1-1 tra Udinese e Parma, è successo tutto in 120 secondi, il vantaggio del Parma con Hernani al 26esimo, il pareggio dell'Udinese con Samir al 28esimo, bella partita. Ci fermiamo, MotoGP. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Tutti convocati. Vignales era lì sbigottito dal sorpasso di Mir, è arrivato a dargli la dose di Valium anche Alex Marquez, che rimette i piedi sul podio un'altra volta. Marquez riesce a far girare stretta la sua onda e a infilarsi all'interno della traiettoria di Mir e prendersi il secondo posto. Confronto tra telai straordinari quest'oggi, quello della Suzuki che entra con Rins, che va un po' largo, cerca di risparmiare strada, Alex Marquez in seconda posizione, ma vince Rins c'è, vince su Marquez e su Mir, due Suzuki sul podio. Ci crede a sto mondiale, non dovete crederci, mancano quattro gare. Sei primo. Come si dice, siamo in ballo, balliamo. Now it's all out and you know. Eh sì, alla Suzuki, carissimo Carlo, fanno bene a ballare, perché la classifica mondiale dice che c'è Rins, c'è Mir, perdonami, c'è una Suzuki in testa, c'è Mir, scusami, in testa al mondiale, e non accadeva dal 2000 con Kenny Roberts, e quindi già questo è un evento. Ma soprattutto la Suzuki è una moto che va, e mancano quattro gare alla fine, non c'è il segnale migliore che possa cambiare qualcosa. Guarda, prima parlavamo di incertezza del campionato di calcio, quello del moto mondiale lo è ancora di più. Oggi gli equilibri sono sottilissimi, continua un podio che ha la porta girevole montata davanti, ogni volta facce nuove. La Suzuki non aveva ancora vinto, Mir non ha ancora vinto una corsa, è primo nel mondiale. Oggi, su questi equilibri sottilissimi, secondo me c'è un segnale preciso, e cioè la Suzuki è la grande favorita, con non quello che ha vinto Rins, ma proprio con, ma con quell'altro. Allora, Rins, ottavo vincitore diverso in questo campionato. Saluto Paolo Ianieri, Gazzetta dello Sport. Ciao Paolo. Ciao, buonasera a voi. Allora, abbiamo ragione Carlo a dire che la Suzuki è la favorita per portare a casa questo mondiale? Io direi di sì, ma anche perché, se state a casa, finora non era mai stata in grado di essere subito competitiva dai primi giri. Oggi l'ha fatto, perché Rins ha iniziato a martellare già dal terzo giro, è passato, è rimasto in fuga per oltre metà gara, e quindi se la Suzuki adesso riesce anche a trovare il bando della matassa nell'essere efficace da subito, diventa un bel problema un po' per tutti, perché comunque nel finale sono quelli che hanno sempre dimostrato di consumare meno le gombe e stanno andando forte. Sì, quando si entra negli ultimi 6-7 giri la Suzuki sembra veramente avere una marcia in più, abbiamo visto in queste gare anche a volte partendo da dietro, sesto, settimo posto, arrivano sul podio perché girano oggettivamente con un ritmo diverso rispetto agli altri. Poi, a differenza delle altre, su tutte le piste è quella che soffre meno le variazioni. Fra 7 giorni si corre ancora ad Aragon, se può, esatto, Significare qualcosa. Sì, poi il weekend successivo in genere ci ha comunque regalato sempre delle sorprese, cioè non ci sono mai state conferme, per cui vediamo che cosa succede. Io mi aspetto che ci possa essere magari una Ducati un po' più competitiva, dipenderà molto anche dalla temperatura. Comunque in questi giorni, all'inizio del weekend, ha fatto parecchio freddo, oggi si stava bene, e la Ducati da ieri, quando hanno anche spostato un po' l'orario, ha iniziato ad andare un po' meglio dalle quarte libere, per cui potremmo aspettarci, io spero, di vedere un Dovizioso almeno un po' più competitivo. La Suzuki me l'aspetto sicuramente, però adesso c'è anche la Honda, perché c'è Alex Marquez che ha fatto due grandissime gare. A Le Mans dicevano sì, su bagnato, ok, però oggi ha fatto una gara della Madonna. Sì, oggi sull'asciutto ha fatto un altro piccolo capolavoro. Non è stato un weekend negativo complessivamente per Andrea Dovizioso, però lui e la Ducati sono un po' come un semaforo impazzito, no? Un po' lampeggio, ogni tanto funziona, ogni tanto si spegne. difficile così immaginare di poter essere veramente in corsa, anche se poi i punti dicono che ha 15 punti da Mir, quindi è pienamente in corsa per il mondiale. Sì, la fortuna è stata che oggi è andata male a Quartararo, che ha avuto un problema con la pressione della gomma anteriore che è impazzita dopo pochi giri e è sparito. Però diciamo che se in passato Andrea era abbastanza regolare anche in certe posizioni, quest'anno lui e la Ducati sono abbastanza regolari nell'essere in posizioni di metà classifica o nei primi, ma non proprio nei primissimi, e quindi fai fatica a poter pensare di vincere il mondiale così. Serve davvero qualcosa. Il problema è che questa forse era delle ultime restanti la pista più favorevole, per cui oggi gli è andata un po' bene, che ha contenuto i danni e ha anche guadagnato. Deve fare qualcosa di buono domenica prossima, perché poi Valencia rischia di soffrire abbastanza, e Portimão è una grande incognita un po' per tutti. D'altra parte, un'altra cosa, insomma, oggi queste due pagine sulla Gazzetta lo hai spiegato bene, c'è anche quel gesto di Dovizioso di ieri che ti fanno capire come la pressione delle gomme mentali in casa della Ducati non sia al massimo della vita, Paolo. Ma sì, perché comunque adesso c'è chi difende Petrucci, chi difende Dovizioso, chi attacca uno, chi attacca l'altro, però quando devi vincere un mondiale si gioca tutto sui dettagli, ma anche la pressione che questi ragazzi comunque devono sopportare ogni gara, ogni sessione, è pazzesca. E io credo che lì Andrea si fidasse di Danilo, che un pochettino diciamo l'ha fregato, non in cattiva fede, perché comunque ogni pilota alla fine ci prova a ottenere il massimo da quello che ha, però lui probabilmente non si aspettava che Danilo gli succhiasse le ruote per tutti i tre tentativi, e quindi ci è rimasto male, e anche forse perché poi ha visto che anche la Ducati non è che l'abbia difeso tantissimo come magari si sarebbe potuto aspettare. E comunque secondo me va bene che sono amici, va bene che nessuno ha mai fatto uno sgarbo all'altro, però in queste situazioni, anche a livello di gestione di squadra, bisogna provare a capire che cosa può succedere e a provare a pianificare un pochettino quello che va fatto, che andrebbe fatto, per cui va bene aiutarsi, devi decidere se vuoi correre o no per questo mondiale. Esatto, e quindi questo secondo me è una pecca della Ducati, ma non è una pecca di quest'anno, è una pecca che purtroppo vediamo abbastanza regolarmente. Già il Mugello 2019 raccontava tanto, se non tutto, ultimo. Ma sì, però io su quello non sono d'accordo, no. Perché comunque Petrucci è stato preso per aiutare Dovizioso, e all'inizio dello scorso anno l'ha fatto in Francia, non l'ha attaccato quando poteva, non l'ha fatto probabilmente neanche a Jerez, però la Ducati gli aveva chiesto anche vincere una gara. Hai l'occasione della vita al Campionato d'Italia, ti si apre un buco, è chiaro che ci provi. Per cui io sul Mugello 2019 non ho assolutamente niente da dire. Chiaramente Andrea si è rimasto male perché non se l'aspettava l'attacco, però io su quel punto non ho niente da dire. Ultimo tema, hai citato giustamente prima il fratellino di Marquez. La domanda è: secondo te alla Honda si sono pentiti di aver già diviso virtualmente la coppia per il 2021? Hanno fatto forse troppo presto? Secondo me è stato un grande errore. Allora, se pianifichi, devi pianificare una strada, e la strada normale, quando prendi un debuttante, di quello di farlo partire dalla squadra diciamo secondaria e poi vedere come va, farlo crescere, quindi magari lo porti nel team ufficiale. In Honda hanno fatto esattamente il contrario, ma soprattutto la cosa brutta è che hanno deciso poi dopo averlo preso, ancora prima di fare una sola gara, che sarebbe stato retrocesso, e quella secondo me è stata una brutta cosa anche a livello di immagine, e non so effettivamente, anche se non ha mai detto nulla anche a Mark, quanto questa cosa sia piaciuta. Adesso sta dimostrando comunque che è un pilota che sta crescendo, non è stato facile, anche perché comunque lui ha gli occhi di tutti addosso, perché è il fratello di Mark e sulla carta è il fratello scarso di Mark. La Honda è una moto complicatissima, non faceva risultati, a Misano partiva in fondo, ha fatto delle brutte gare, che ci sta, però adesso sta dimostrando, cade poco e soprattutto migliora sempre di più, e oggi come ha corso l'avete visto il tweet di suo fratello? No, cosa ha scritto? Ha scritto ciao a tutti, io sono il fratello di Alex Marquez. Secondo me è molto carina. Che è incoronarlo, che è incoronarlo. Grazie Paolo. Ciao Paolino, grazie. A voi. Ciao. Grazie a Paolo Ianieri, Gazzetta dello Sport. Intanto è finito il primo tempo di Udinese Parma, parziale 1-1, il gol di Hernani al 26esimo. E due minuti più tardi il pareggio per l'Udinese, colpo di testa di Samir. Vedremo nella ripresa. Noi ci fermiamo, c'è il traffico, poi andiamo sulle strade del Giro d'Italia. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Convocati. Andiamo sulle strade del Giro d'Italia con il nostro Pier Augusto Stagi. Ciao Pier. Ciao Giovanni. Ciao. Allora, oggi tappa con arrivo al Piancavallo, 4 Gran Premi della Montagna, 185 km, era uno dei punti di svolta indicati in questo Giro d'Italia prima di entrare nell'ultima settimana con tutte le incognite di cui abbiamo parlato anche 7 giorni fa, legate al meteo, alla possibilità davvero di andare in salita. Allora, abbiamo visto la vittoria di Gegenhardt, l'attacco di Kelderman che si è avvicinato e di molto alla maglia rosa, Joao Almeida che ha resistito da solo, è arrivato stremato letteralmente, ha fatto un metro oltre la linea d'arrivo sul Piancavallo e si è praticamente gettato per terra, ha mantenuto la maglia rosa per 15 secondi. C'è una classifica che si sfilaccia, c'è Nibali che pare non averne. Io non lo so, Pier, secondo te qual è la notizia di giornata tra tutte queste? Ma la notizia di giornata intanto sembra che l'ultima settimana possa essere salvata dalle condizioni meteo, quindi spettacolo. Ci auguriamo che ci sia grande spettacolo, dallo sullo Stelvio, sul Colle dell'Agnello, sul Edoardo. Andranno lasso in cima e questo vuol dire che non va benissimo a Joao Almeida, perché se le montagne fossero, come avevo detto nei giorni scorsi, fossero state abbassate, secondo me il portoghese, il ragazzo portoghese, poteva anche cavarsela, difendersi, ma andando a quelle vette a oltre 2000 metri la musica cambia. E devo dire che mi sembra chiaramente a questo punto un giro nelle mani della Sunweb, nelle mani di Wilco Kelderman, sorretto da una squadra veramente molto molto forte. Oggi abbiamo visto il Dudley che è stato pazzesco, ha fatto praticamente tutto lui. L'interrogativo è, Kelderman non ha usato, perché comunque non ha fretta, perché sa giustamente con grande intelligenza che c'è una settimana veramente da capogiro. Poi invece anche lui non aveva una condizione super e quindi si è contentato di farsi portare su dal suo compagno di squadra. Questo lo scopriremo logicamente nei prossimi giorni, da martedì, però è chiaro che lui è a 15 secondi della maglia rosa, va bene così, l'ha lasciata ancora la De Koenig, saranno problemi della De Koenig che dovrà lavorare un circuito abbastanza fastidioso, rognoso, di martedì a San Daniele del Friuli. E poi da mercoledì si comincia a salire, si va a Madonna di Campiglio e da quel momento in poi chi c'è, voleranno gli assi. Sì, voleranno minuti e quindi 15 secondi in questo momento che salvano la maglia rosa di Joao Almeida sono, diciamo, un soffio di vento. Parliamo di Nibali? Posso fare la domanda di Bar? Vai. Ma Nibali ne ha o non ne ha per vincere questo giro? Guarda Carlo, io temo, è vero che nello sport, nella vita, mai dire mai, c'è sempre domani, però razionalmente un conto è il cuore, un conto è anche un po' di testa, perché comunque già era riuscita a ribaltare una situazione, sì nel 2016 è riuscita, sono passati 4 anni, tra pochi giorni Vincenzo compierà 36 anni, molti grandi campioni a 32 anni avevano già abbandonato il ciclo. Lui è lì a lottare con dei ragazzini, come un ragazzino, con lo spirito di un ragazzino, per questo e solo per questo dovremmo applaudirlo. Però credo che l'ha dimostrato, questo giro ha una squadra molto debole, molto poco attrezzata, è stato anche sfortunato perché Giulio Ciccone, che doveva essere l'ultimo uomo preso il Covid, è arrivato al Giro d'Italia in extremis, il programma era facciamo facciamo due settimane e vediamo di portarlo in condizione. Una terza, si è fatto male anche l'altro scalatore, Gianluca Brambilla, quindi non è andata bene. E lui da solo, che lotta un po' contro tutti, è vero che la sua in cima, dove osano le aquile, là dove l'aria è sempre più rarefatta, Vincenzo in qualche modo qualcosa ha inventato. Deve avere un po' di fortuna, però credo che, sai, un po' di fortuna puoi acchiappare ancora il podio con un po' di fortuna. Perché se tu guardi dal terzo all'ottavo sono veramente tutti pochissimi secondi, ma recuperare 3 minuti a Kelderman e a Almeida è cosa veramente molto alta. Devi andare tutto bene, devi beccare la giornata giusta tu e devi sperare in un crollo verticale dei tuoi avversari. E mi sembra uno ancora, ma tutte e due è una cosa che mi resta da vedere. Quindi sono un po' pessimista, purtroppo. Tu sai quanto abbia a cuore Vincenzo, quanto ci ha fatto divertire, ma temo che questa volta la situazione sia piuttosto complessa, nonché complicata. Sì, la situazione è seria sportivamente parlando, sì, ovviamente, chiaro, perché in questo periodo insomma parliamo di altro. Parliamo pur sempre di noi parliamo di sport, ragazzi. Esatto. Grazie Pier Augusto. Ciao Pier. Grazie a voi ragazzi. Ciao Pier Augusto Staggi, che risentiremo domenica per tirare la riga del bilancio su questo Giro d'Italia che vive una settimana a questo punto salva, si spera, dal punto di vista meteorologico, e quindi con le grandi oggi salite. Non abbiamo guardato che temperatura fa sullo Stelvio. Ci fidiamo di Pier Augusto Staggi. Allora, noi ci dobbiamo fermare qui. Io ringrazio Edoardo Lavezzari in redazione, Pietro Lacorte e Andrea Roccabella, che si sono alternati dietro il vetro in regia. L'appuntamento con tutti i convocati torna domani con Carlo Genta, per Luigi Pardo, dopo il GR delle 14, mentre tutti i convocati weekend torna domenica prossima, rigorosamente in diretta alle ore 17. Ciao! Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ciao, Radio 24. Saluti! Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.